qui finisce la lezione. È solo chiacchiere distintivo, solo chiacchiere distintivo. È solo chiacchiere distintivo. No, quello lasciano, quello va al centro. Ah, ok, perfetto, perfetto. Sì? Di solito si abbassa, no? Sì, però sempre lasciamola un pochino, dai, in sottofondo. Te la senti? Ti torna? Ci siamo, ecco così. Vabbè, insomma, sempre incerti. Ma sì, facciamo una cosa, facciamo il test proprio in diretta. Ma vogliamo dire che siete sempre all'ascolto di Radio Onda Rossa? Malgrado che l'atmosfera sia piuttosto rilassata stavolta, no? Stiamo partendo proprio abbastanza sdraiati quasi. Sì, strascicati. Strascicati. Le frequenze sono quelle della radio, Radio Onda Rossa 87.9 della banda romana laziale. E no, ma c'è proprio un aplomb, sai, sembra una trasmissione di quelle serie? No. L'anima della notte. Ah, la notte. Sì. No, ma è anche merito di questo, praticamente di questo eco che c'ho, un leggero replay penso mi provoca proprio uno sdoppiamento della personalità. Sono proprio le onde sonore in risonanza che ti vanno a scombussolare tutte le connessioni neuronali. Un déjà vu perenne. E a costo zero. Ne parleremo più avanti. Sì, 87.9, la modulazione di frequenza della banda romanellaziale, Radio Onda Rossa, www.ondarossa.info, andate su In Diretta, lì ci trovate come ascoltarci attraverso lo streaming, ma c'è sotto In Diretta, ci sta il banner per 30 per 1000, 30 euro per 1000 di voi, la campagna di radio abbonamento di Radio Onda Rossa, ormai al terzo anno, se non vado errati. Ed è la forma attualmente di finanziamento che più ci si addice, più si addice alla situazione. E quindi vi invitiamo di aderire alla campagna, cliccate dentro il banner, ci stanno tutte le istruzioni e questo permette di far vivere Radio Onda Rossa per un anno intero. diretta sulle frequenze di Radio Onda Rossa, dicevamo 25 o'clock. Per contattare la radio, oltre ai canali social, è anche possibile con la vecchia casella di posta elettronica della radio, cioè ondarossa@ondarossa.info, la redazione. Per contattare invece lo spazio che state ascoltando, 25 o'clock@ondarossa.info, la casella di posta elettronica. (06491750) recapito telefonico della radio, a cui noi non risponderemo, essendo questa trasmissione da un improvvisato ma sempre più tecnologico, diciamo succursale remota della radio. Oh, si inizia bene. Dicevamo prima proprio di alcuni pezzi, per dire l'indescrivibile, l'indicibile, no? L'indicibile. Sì, no. Aspetta, vai. Ci sono? Sì. Beh, sì. No, sì, le bellissime cose che diciamo sempre a microfoni spenti, che potrebbe sembrare una scusa per coprire le nostre carenze. Però. No, però sì, era uscito un bel discorso appunto su non importa quale sia il genere, quale sia la forma con cui si fa, ma è importante invece che alle volte ci stanno delle cose che ti prendono dall'hip hop al blues, a quello che vi pare, perché fatte con un'energia particolare che comunica e travaglia proprio il testo. E una di queste cose, se permettete, la rimettiamo da capo, ci abbiamo parlato, è proprio questo lavoro dei Rolling Stones del 1964, si chiama 12x5, che molto banalmente significa 12 pezzi e loro erano in 5. Blues, rhythm and blues, rock and roll, insomma c'è di tutto. Questo è un bel garage, tra l'altro una cover, come quasi tutte sono cover. Aspetta, si può ballare? Si deve. Vado? Si deve. Like you wanna cry. his head about the bed. Bed's a winner, well, a bed, bed, bed. Bed is a winner, well, a bed, bed, bed. Well, a bed is a winner, well, a bed, bed, bed. Bed's a winner, well, a bed, bed, bed. Well, a bed is a winner, well, a bed, bed. Bed's a winner, well, a bed, bed, bed. Bed's a winner, well, a bed, bed, bed. Well, a bed is a winner, well, a bed, bed. Bed's a winner, well, don't you know that the bed, well, everybody knows that the bed is a winner. Mi era piaciuta la frase di chiusura, sempre detta a microfoni spenti. A volte c'è una ragione perché teniamo i microfoni spenti. Alcune cose a microfoni spenti. Vabbè, ma tanto l'abbiamo sempre detto pure in diretta, in realtà. Cioè. Era Trashman. Trashman. Come descrivere questo suono? Trashman. Questa energia nel video, allora, la trash ci è stata suggerita da Marco di 38, intanto che diciamo, lo salutiamo. E che qualche settimana fa ci ha mandato proprio il link col video di Trashman e Suffering the Bird e niente, e così dice: mai visto che energia, stato puro, eccetera eccetera. Io ho detto proto punk, perché proto punk c'è un po' 4-5 anni dopo questa roba qui. E questo è proprio è lui che l'ha inventato, in realtà. Questo dicevamo proprio è l'unione fra, come dicevamo prima, fra l'Africa. L'Africa che entra nel mondo dei bianchi drogati. Eccolo là. E quella è la scintilla. Vabbè, da capo, quindi di qua che ci abbiamo pronto? Ci abbiamo pronto qua una risposta. Questa preparata per te. Non male. Sì, perché l'altra volta mi hai mandato la cover dei Metallica. Sì. Apocalittica. Quindi una versione acustica orchestrale di un pezzo di Metallica. Loro invece vanno a mettere in un frullatore. Sì. Quello che è tutto l'immaginario, i testi dei Beatles. Sì. Anche le musiche, le strutture delle canzoni, certo. Tutte queste belle cose. Ma nello stesso tempo lo fanno al modo dei Metallica, quindi scimmiottando proprio il modo di suonare, il modo di cantare dei Metallica. E quindi prendendoli anche un po' per il culo. Eh sì, ma tutti e due hanno avuto anche dei problemi legali, sia da parte dei Beatles che dei Metallica. Beh, Beatles quel che rimane. Stiamo parlando dei Metallica, un gruppo Metallica, quindi fantastici, e Dami Luoghi. E quindi per un lungo periodo hanno dovuto distribuire la loro musica solo gratuitamente, perché non potevano avere nessun introito, royalty. Da una parte c'erano i Beatles, dall'altra i Metallica. Insomma. Insomma, non stanno simpatici anche per questo. Sì, come il topino che gira qui negli studi, come avevamo detto, la succursale il mercoledì. Questa è l'autonoma. Il mercoledì notte. Il mercoledì notte. Loro, allora, ce le ascoltiamo da capo. Questa è la loro versione di Help. Loro sono in Vitalica. Questo è sempre 25 Pro. Dai. Allora, ancora sì, abbiamo appunto ascoltato i Vitallica. No, ci tenevo anche sì. a dire i nomi dei componenti dei Vitallica. Sì, me ne ehi. James Lenfield alla voce. Gerg Ametson, Cliff McBurney e Ringo Lars. No, ci tenevo perché anche nei nomi hanno praticamente fatto una commistione, sì. Sì, okay. Versione a coglionella di Light the Bob, dicevamo. Esatto, sì. No, sì, probabilmente nati in un pub. Attenzione, no? Che sta succedendo una tragedia. No, non ti preoccupare, succede una tragedia, ma noi rimediamo subito. Sì, si spegne. Piccolo problema tecnico. Ah, il compagno problema tecnico anche con noi stasera. Eccoci qua, sì. Perfetto. Va bene, noi dopo i Vitallica continuiamo con la scaletta. Abbiamo preparato un pezzo dei Tin Lizzy, Gruppo nato a Dublino nel 1969. Giovanotti. Come? Giovanotti. Hanno sfornato 12 dischi, carriera interrotta con quest'ultimo disco. A seguito della morte del cantante Phil Lynott dell'86, questo è l'ultimo lavoro dei Tillizzi del 1983, intitolato Thunder and Lightning, e ci andiamo ad ascoltare The Sun Goes Down. L'abbiamo ascoltato appunto i team lì, siete sempre all'ascolto di 25 O'Clock sulle 87.9 in FM di Radio Onda Rossa. Abbiamo ascoltato appunto i team Lizzy dal loro ultimo lavoro del 1989. Dall'Irlanda ci spostiamo in una città che c'è, no, ci sono in realtà è brutta, ma non so quanto fosse brutta nel 1969, credo assai, anche perché i Pischelli che abitavano a Birmingham e dintorni probabilmente sentivano tutto il giorno le fonderie, le fabbriche, insomma, che c'erano a Birmingham, si stiravano a quei suoni lì, e quei suoni lì, i Judas Priest che andremo ad ascoltare, e vedete che è uscita fuori un'anima che era sepolta ormai da un po' di tempo, invece si è rilevata in tutta la sua profonda conoscenza anche della comunità. No, commentavo bene, e quindi sì, i Judas Priest da Birmingham vanno ad attingere sempre a quei suoni lì, sono tra i padri fondativi della rimanda, e ce l'ascoltiamo qui da un disco del 1978, Killing Machine, e questo è il pezzo di chiusura dell'album, Killing Fantasy. Come on! Allora, abbiamo ascoltato un pezzo dei Pentagram dal disco del 94, Be Forewarned, uscito sulla Pisbi, etichetta che tra la fine degli anni 80 e tutti gli anni 90 ha sfornato dischi di culto dell'underground doom metal e black metal. Appunto, questo dicevamo prima, sempre a microfoni spenti, terzo lavoro dei Pentagram, terzo lavoro del 94, quando loro invece si sono formati nel 1971, quindi coerenti con il loro suonare lento, suonano lenti e fanno tre dischi in 25 anni. Ma manco doppi, tipo, proprio dei dischi così, degli no, anche brevi. 45 anni. Sì. Però sono ben pochi pezzi sì. Un pochino lunghi, sì, tanto sì. Sono lenti, ve li potete gustare. E quindi, vabbè, ci sarebbero da dire un sacco di altre cose sui Pentagram, ma lo faremo nelle prossime puntate, perché ci ritorneremo sopra. Intanto abbiamo pronto sul piatto di, si può dire piatto di destra? Massi, intanto non lo sa. Vediamo già il vinile che gira sul piatto di destra. Loro sono gli Oldham Witchy. I Pentagram venivano dalla Virginia, e invece gli Oldham Witchy da Nashville, gruppo abbastanza recente, formato nel 2012, già l'abbiamo sentito qui da queste parti. Qui ce li andiamo ad ascoltare dal loro ultimo lavoro, da Nothing as the Idea, ultimo lavoro degli Oldham Witchy, e questa è 25 O'Clock. Hearing of the way, the best of men, live the word at length, cherish it. il talk è indispensabile. Appunto siamo andati a rispolverare e si sale di livello tecnico, mi sembra. Allora, sì, sto scena che era iniziata a fine anni 80, poi in risposta a tutta l'ondata del death metal americano, la scena scandinava, insomma, del death metal, era tutti scherzi, 15 anni, ha tirato fuori un suono caratteristico, abbastanza a zanzara. Gli Entombed era uno dei gruppi che facevano parte di questo nuovo suono di Skelly, di Scandino, dalla Svezia. Ci ascoltiamo qui dal disco Wolverine Blue, già cambiava il primo disco degli Entombed, è un caposaldo appunto del death metal scandinavo. Già con il secondo lavoro hanno ampliato, avevano ampliato i loro suoni. Andando a prendere dal garage di altre sonorità, c'è qualcuno che aveva descritto il loro sound, non riuscivano più a catalogarlo, non è più death metal, e è stato come death and roll, le esigenze più giornalistiche. Secondo me c'è e ci ascoltiamo da capo. Oh, Allora, ci abbiamo invece pronto un altro pezzo di un gruppo che non è che abbiamo passato così tanto spesso poi durante qualche proclock, eh? E abbiamo avuto ospite più di una volta il cantante di questo gruppo con altri suoi progetti. Progetti che rispondono al nome di Urs. Ah! E di Red Arampus. Oh! Anche collaborato di recente, mandando un paio di brani quest'autunno. Come? Credo che abbia anche contribuito a 25 O'Clock di recente. No, direi di no. Non lo so. Mandando un paio di tracce, no? Mi rimane perplesso. Forse sbaglio. Credo di no. Sbaglio l'accostamento. Allora, sì, riprendiamo il filo. Loro stiamo parlando dei Doomraiser. Gruppo romano, sempre di doom metal, per rimanere nella macro area. Sarebbe interessante, magari, se riusciamo ad organizzarci prossimamente, perché sarebbe bello tornare a chiacchierare con Nicola, anche con gli altri, di quest'ultimo lavoro che è uscito proprio un mese prima del lockdown. E che quindi, come la maggior parte, certo, per presentare il disco, insomma, come tutti i gruppi. Quindi sì, insomma, se ce la facciamo in futuro andremo a farci raccontare dalle loro voci la storia di quest'ultimo disco. Uscita appunto l'anno scorso, The Dark Side of Old Europa. Questo è un pezzo che è dedicato alla memoria di Valerio, il primo chitarrista di Doomraiser, scomparso qualche anno fa. E questa è la loro Lovesome Explorer Interpolation. Allora, stasera mi sa che niente, ho individuato una chicca. Ma lo vogliamo dire che siamo soltanto sento graffiare. Sì. No, lo fa. No, dicevamo volevamo ricordare che siete all'ascoltatore di Onda Rossa 87.9 della modulazione di frequenza, che siamo in diretta 06 minuti dopo la mezzanotte, che potete chiamare lo 03491750, il recapito di Radio Onda Rossa, non vi risponderà nessuno, però lo apprezzeremo ugualmente. Se volete farci qualche offesa. Sì, c'è una casella di posta elettronica appositamente dedicata che si chiama 25oclock@ondarossa.info, 25 scritto al numero, e che siete sugli 87.9, l'abbiamo detto, e che c'è la campagna di abbonamento a mezzanotte, bisogna dirlo, 30 per 1000, una radio che ha sempre vissuto senza fare pubblicità, e in tutti questi lunghi 43 anni ormai mancano veramente pochi giorni, e ai 44 a festeggiare il 44esimo compleanno della radio. E quindi riprendiamo da dove, dopo questa doverosa parentesi, riprendiamo da dove ci eravamo un attimo fermati, cioè a Doomraiser. E dopo i Doomraisers, e poi vedi, neanche a farla apposta, sempre dallo stesso giro di contatti e quindi di scambi di suggestioni sonore, loro, i Circle of Rhinos, sono usciti da poco, quindi già un progetto nato in fase quantifica poco, perché molte volte noi diciamo poco, sono 15 anni insomma. Questo EP è uscito da una settimana circa, quindi direi rientra nella fattispecie poco. E alla chitarra, allora io non so molto di questo gruppo, l'unica cosa che so è che alla chitarra c'è una nostra conoscenza, perché è lo stesso chitarrista dell'Ira del Baccano. Facci picchia. Che evidentemente non è riuscito a non produrre niente in questi ultimi mesi. Certo. Ha tirato fuori questo lavoro. Non lo conosciamo molto, lo ascoltiamo insieme a voi. Sì. Circle of Rhinos, li trovate su Bandcamp. E questa è la loro Behold the Hunt. Allora, questo appunto appena passato dal... quello è il giochetto di prima, sì sì sì. Non l'avevo pure detto. Certo. Allora, sì, appunto, i Circle of Rhinos, nuovo progetto. Sicuramente di Alessandro, la chitarra una delle chitarre dell'Ira del Baccano. Gli altri componenti lo scopriremo perché semplicemente non lo sappiamo. Non lo sappiamo. È uscito da una settimana. Non abbiamo avuto modo. Tempo, insomma, sì. No? E, mentre abbiamo pronto invece un pezzo degli Amphist, loro vengono da Napoli, disco uscito l'anno scorso, sempre credo a dicembre o giù di lì, e quindi un po' questa sera una rassegna di progetti che comunque stanno continuando a uscire di questi tempi. Qui appunto dall'ultimo lavoro no vabbè, un po' di incertezze sulla pronuncia, ma direi lo posso dire io che non c'ho alcuna fama da linguista da difendere, insomma li sbaglio tutti, quindi posso dire con tranquillità la licenza d'errore. Amphist, what's the tender said from Eschaton, o così pensiamo si pronunci, 2020. We'll be right back. Eccoci. Allora, questi appunto gli Amphist da Napoli e dintorni. Bella roba pure qua, eh. Sì. Belli. Allora, e invece torniamo a Roma. Questo è l'ultimo. No. Allora, io credo sia proprio il primo lavoro dei Rat & Conic. Rat & Conic che abbiamo avuto il piacere di organizzare in concerto. Credo fosse uno proprio di, se non il primo, forse il secondo concerto di Rat & Conic. Dove? Quello era il concerto. Memoria. Con chi? Era la Gaines Repression Night. Ah, numero sì. A presentazione della Scarceranda 2016. Perché l'avevamo fatto nel 2015 nel Tunnel del Forte con, vado a memoria, anche i Cenere. Ma ci stanno dietro qui il muro, no? Nemmeno il muro della succursale di Vetta Rossa. Cosa? Il manifesto. Certo. È esattamente clonato, sì. Lo studio della radio. E insomma, sono usciti anche loro da pochissimo, neanche un mese. Questo è il loro lavoro Presagio di Morte. Rat & Conic da Roma. Grazie di aver tirato fuori un niente. Adesso ce lo ascoltiamo così capirete. Città Ratter Koenig, quindi, a Onda Rossa. Avete sicuramente riconosciuto la voce del Cresta. Beating on the beat. L'attitudine. From every car in the street. A metà fra il Forte Prenestino e San Lorenzo, diciamo dalle parti di Casal Bertone. Quello è il suono. Heartbreaking beats. Perché anche tra le strade di Roma in realtà basta dare le coordinate geografiche per trovare che tipo di suono si ascolta. Questa è Onda Rossa, che trasmette da remoto ormai in maniera quasi fissa il mercoledì notte / giovedì. E ci avvaliamo quindi di una formazione che sembra sempre più si vada consolidando anche appunto nelle difficoltà offerteci dal nostro miglior compagno, il compagno problemi tecnici. Però insomma dai, ci proviamo, a volte ci riusciamo pure, non so in cosa però. Poi un piccolo interludio con la colonna sonora di, o comunque, un fatto della soundtrack del film The Road. Nick Cave e Warren Ellis. Noi così lentamente vi lasciamo alla programmazione consueta della campagna, della compagna automatica Sonata, che riprenderà dopo le nostre voci le sue selezioni di repliche e di musica. Quindi si riprenderà in diretta dalla mattinata dalle 8, quando c'è la lettura delle prime pagine dei giornali, la rassegna stampa cittadina e redazionale della mattina di Onda Rossa, fino alle 14, poi la pausa, diciamo una piccola pausa, alle 14 si riprende con tutta scena cinema, alle 16 Attica Blues, oltre la Black Music, alle 17 redazione completa per la Schiena del Sol, ormai da qualche settimana, in redazione del giovedì il Mezzedes, e alle 20 Tabula Rasa, la trasmissione sui libri di Onda Rossa, alle 23 non sappiamo veramente. Ci auguriamo apostasia. Il nostro saluto più importante va a tutti e a tutte coloro che sono costretti a condizioni di limitata libertà personale e se ne aggiungono sempre di nuovi. Oggi arrivavano anche notizie da Oltralpe, per delle cose oserei dire antiche, quasi di un'altra epoca, vabbè. Vai a capire che scambi e che giochi diplomatici. Diciamo dicevamo, comunque la repressione è sempre al centro in questo periodo, in cui non manca giorno in cui, malgrado appunto l'emergenza Covid e la mancanza di praticamente quasi tutto per condurre una vita dignitosa, non c'è giorno, dicevamo, che non arriva notizia di sgomberi di qua e di là, per e nelle città. Mega finanziamenti per le TAV varie in giro, così invece di avere una valsusa ne avremo moltiplicate. Bene, a questo e a quello si risponde con forme di prevenzione, sì, di repressione, alle volte preventiva. Quindi un saluto a tutte e tutte le persone detenute. Noi credo che ci sentiamo mercoledì prossimo, in quale forma, in quale modo, in quale struttura, non lo sappiamo. Non è da sapersi. Ci inventeremo qualcosa. Dai, vi lasciamo con LCD Sound System e con la compagnia automatica suonata dopo la sigla. We'll be right back. again, tonight we'll win. Let it begin, tonight we'll win. Dreams under a communist moon.